I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Deborah Rosciani. Sono giornate calde per i mercati finanziari, con delle correzioni consistenti che sono arrivate soprattutto dalla seconda parte della scorsa settimana, in concomitanza con la diffusione del dato sul prodotto interno lordo americano, che a sorpresa è cresciuto molto poco. Si allontana ancora la possibilità di un aumento dei tassi di interesse da parte della banca centrale americana, ma a proposito di tassi, settimana scorsa sul mercato obbligazionario si è visto davvero di tutto. Intanto è andata parzialmente scoperta, come molti operatori si aspettavano da un po', un'asta di bund tedeschi. I rendimenti praticamente negativi cominciano ormai ad allontanare gli investitori dalla Germania. Scivolano sempre più in giù anche i tassi dei titoli di Stato italiani. Un focus speciale lo ha meritato settimana scorsa il botto a 6 mesi che ha azzerato il suo rendimento. Dal punto di vista della borsa, gli osservati speciali del momento sono intanto Mediaset, con la svolta ai vertici e la nomina di Pier Silvio Berlusconi in qualità di amministratore delegato del gruppo, decisione presa in un momento particolarmente delicato per il gruppo, con tutta la partita sulle possibili alleanze strategiche. Giovedì ha subito un vero e proprio tracollo in borsa STM, il leader italo-francese dei chip ha chiuso il trimestre con una perdita netta di 22 milioni di dollari ed è arrivata la sonora bocciatura da parte del mercato. Anche Fiat ha avuto una sbandata in borsa dopo i conti e pare che gli investitori siano rimasti particolarmente delusi dal fatto che Ferrari non sarà quotata in borsa prima dell'anno prossimo. Sullo sfondo intanto continua a destare preoccupazione la situazione della Grecia, ma andiamo ai temi da monitorare questa settimana. Intanto le elezioni in Gran Bretagna e quindi monitoreremo la sterlina. Abbiamo molte trimestrali, quella di Luxottica, Terna, Enel, Finmeccanica, Telecom e altri grandi gruppi. Oggi e domani chiusura della borsa giapponese, c'è la disoccupazione americana di aprile, venerdì prossimo, e poi in settimana la diffusione delle nuove previsioni economiche da parte della Commissione europea. E infine oggi il premier Matteo Renzi è presente ad un incontro in borsa con le società quotate al segmento Elite. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Salvatore Padula. Capiremo nei prossimi giorni come il governo riuscirà a far fronte al buco nei conti pubblici aperto dalla sentenza con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima per gli anni 2012 e 2013 la norma del decreto Salva Italia che prevedeva il blocco dell'adeguamento al costo della vita delle pensioni superiori a circa 1.400 euro al mese. La norma risale all'epoca del governo Monti, erano i giorni caldissimi dello spread a quota 600, quando il nostro paese si è trovato a un passo dal default. In queste ore numeri e stime si rincorrono per capire quanto dovrà essere restituito ai pensionati che hanno subito il blocco della pensione, ma anche dove lo Stato prenderà gli 8-9 miliardi necessari per effettuare i rimborsi. Ovviamente la sentenza della Corte dovrà essere rispettata, non è questo il punto, ma la vicenda si presta a una considerazione su un tema molto delicato, qual è quello dei diritti acquisiti in ambito previdenziale. Quando sono richiesti sacrifici ai cittadini, appare sempre più difficile ripartire questi sacrifici anche tra le generazioni passate. C'è la tendenza a farli ricadere solo sui più giovani. I più anziani, peraltro, possono in genere contare anche su trattamenti pensionistici più favorevoli rispetto a quelli che in futuro avranno i giovani. Ora, la sentenza della Corte Costituzionale sembra rafforzare l'idea che nessun diritto acquisito possa essere intaccato. Non è proprio un messaggio di equità. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.